Vieni, che ti offro da bere. Vieni, questa è l'ultima volta che siamo insieme e parliamo di noi. Poi sarà quel che sarà. Bevo e mi sembra veleno. Parlo, ma non so quel che dico. Vedo che tu hai votato il bicchiere. Ora ci alzerà, ci vedrà. Vorrei che tu adesso dicessi io scherzavo, ma sembro che non sei già qui. Siamo insieme e parliamo di noi.